Viva Voce con Alessandro Milan. Le 9 e 6 minuti, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. In Italia sono 107 e della loro utilità si dibatte da anni. Sono uno spreco di soldi per qualcuno, per altri sono un indispensabile ente di radicamento sul territorio, di collegamento tra cittadini e territorio. Forse l'avete già capito, sono le province italiane per le quali periodicamente rispunta la proposta: vanno abolite. Ora è la volta del quotidiano Libero, che ha iniziato una campagna da qualche giorno in tal senso. Le province italiane costano troppo, se ne parla appunto, come detto, da anni. Oggi Libero ricorda che già nel lontano 1880, cioè 128 anni fa, Crispi diceva: la provincia è un ente artificiale che può anche essere soppresso perché non ha una consistenza naturale come il comune, e dunque andrebbero eliminate. C'è invece chi le difende, le sostiene, sono importanti, sono appunto un elemento di collegamento con il territorio, e chi invece le vuole togliere dice finalmente potrebbe essere un modo per dire che il tagliamo la spesa pubblica non deve essere uno slogan solamente, ma può concretizzarsi in qualcosa di tangibile. Cercheremo di capire quanto ci costano, se sono necessarie, che competenze hanno, che utilità hanno, chi le difende, chi le attacca, chi le vuole abolire e chi le vuole invece mantenere. Le province. Voglio salutare l'onorevole Massimo Calearo del Partito Democratico. Buongiorno, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Calearo. A voi. Così come saluto Dario Galli, che è presidente della provincia di Varese, della Lega. Buongiorno Galli. Sì, buongiorno a voi. E benvenuto. E saluto anche Silvio Boccalatte, che è un ricercatore, un dottore di ricerca all'Università di Genova, ha curato il libro per l'Istituto Bruno Leoni dal titolo emblematico Abolire le province. Benvenuto Boccalatte, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Più tardi poi ci raggiungerà anche il presidente Lupi, presidente dell'Unione delle Province Italiane, che presiede anche la provincia di Rieti, Fabio Melilli. Alle 9:10, negli ultimi giorni, il quotidiano Libero, alcuni titoli sono partiti da sabato: abolire le province, l'apertura in prima pagina, la fregatura delle province, chiudiamo le province, un'adesione, una campagna, mandateci le vostre firme. Insomma, questa campagna di Libero ha rilanciato il dibattito con chi aderisce e chi invece difende l'utilità delle province italiane, che, come detto, sono 107, ma ci sono anche delle proposte di legge per farle aumentare. Alcune, per esempio 3, Monza, Fermo e Barletta Andrea Trani, sono addirittura d'arrivo, cioè di fatto sono già costituite ma sono state congelate fino a giugno 2009. Insomma, già ci sono, qualcuno dice già ci costano, anche se non ci sono formalmente, non sono operative. Silvio Boccalatte, come detto, lei è ricercatore a Genova, ha curato questo libro per l'Istituto Bruno Leoni dal titolo Abolire le province. Quanto ci costano le province italiane? Quanto pesano sulle casse dello Stato? Allora, le province italiane costano circa 16 miliardi e mezzo di euro, che non è tutto sulle casse dello Stato, perché non sono tutti trasferimenti statali, però anche questo è un dato che su cui ora bisogna riflettere un attimo. Interessante notare però che cosa? 16 miliardi e mezzo di euro, di cui 115 milioni di euro di soli costi politici. Ci sono in Italia 4.207 politici, mi risulta, quindi poco più di 4.200 politici che si occupano di province. Ora, 115 milioni di euro di soli costi politici potrebbe sembrare poco, lo 0,6-0,7 delle spese totali delle province, ma se noi le rapportiamo questo dato al costo dei parlamentari, non il costo del palazzo, attenzione, ma il costo dei parlamentari. Sì, gli stipendi, insomma. Sì, gli stipendi che possiamo stimare in circa 300 milioni di euro, un dato simile a questo. Se noi lo rapportiamo al bilancio statale, ci rendiamo conto che quello è un costo infinitesimo. mentre il costo dei politici rispetto alla spesa complessiva delle province è un costo enormemente più alto. Sì, cioè 115 milioni di euro l'anno è il costo politico delle province, rispetto ai 16 miliardi e mezzo, proporzionalmente è molto di più del costo politico del Parlamento, 300 certo. milioni di euro. Insomma. Certo. Ma queste province negli ultimi anni, visto che si dice ce ne saranno forse di più, qualcuno ne vuole di più, negli ultimi anni, non so, la tendenza negli ultimi 10 anni, negli ultimi 7 anni, è una spesa che insomma in qualche modo aumenta, diminuisce, è un problema effettivamente oppure è un falso problema? No, è un problema perché è una spesa che aumenta in modo preoccupante, perché noi possiamo dire, prendiamo come riferimento dal 2000 al 2005, abbiamo un aumento delle spese totali del 65% per le province, e attenzione, le spese per le funzioni che svolgono le province sono aumentate sì, ma solo del 41%, quindi vuol dire che il macchinario è diventato più inefficiente. Ma non solo, attenzione, sono più che triplicate le spese per ripagare prestiti contratti dalle province. E infatti, se noi vediamo, diciamo, l'altra facciata della pagina e vediamo le entrate, noi ci rendiamo conto che nello stesso periodo di tempo, cioè tra il 2000 e il 2005, noi abbiamo un aumento dell'83% di entrate dovute ad accensione prestiti, nonché peraltro l'81% di aumento di trasferimenti correnti dallo Stato o dalle regioni. Questo implica due cose. Vuol dire che le province si indebitano sempre di più e quindi poi devono ripagare sempre di più e aumentano spese per ripagare i prestiti, soprattutto alla luce di quello che sta succedendo in generale sui prestiti. Sì. In secondo luogo, le province diventano sempre di più, come erano già alla loro nascita, degli enti totalmente dipendenti o dalla regione o dallo Stato per le proprie finanze. Quindi non sono nemmeno, cioè i dati ci dicono che le province non sono enti di federalismo, sono il contrario diametrale. Cioè sono dipendono dai finanziamenti, dai trasferimenti dello Stato, sempre di più. Sì. Allora intanto ci ha raggiunto, lo saluto, Fabio Melilli, buongiorno Presidente delle Province Italiane, con il Presidente della Provincia di Varese, Galli, e Massimo Calearo, deputato del Partito Democratico. Calearo, visto che così andiamo alle critiche, poi dopo ci sono quelli che si difendono. Onorevole Calearo, lei all'interno del Partito Democratico ha assunto anche una posizione un po' anche controcorrente, cioè lei è per l'abolizione, dice sono dei poltronifici totali le province, conferma? Ma guardi, io siccome vengo e rimango dal mondo dell'impresa, guardo poco al problema della politica, ma cerco di guardare il problema dei cittadini. E prendo come esempio, sono contento che dall'altra parte ci sia un presidente di provincia della Lega, a Varese, perché la mia esperienza sulla mal gestione di una provincia viene proprio da Vicenza, che ha avuto una presidente leghista oggi in Parlamento per 10 anni. La provincia di Vicenza in questo periodo, oltre ad essere una distribuzione di incarichi ai trombati della politica, ha fatto sì che ha investito una montagna di soldi dei cittadini per acquistare un forte pacchetto dell'autostrada Verona Brescia a Padova. Questo anche per permettere ora al presidente poi di fare il presidente dell'autostrada. Ha costruito tutta una serie, io le chiamo di miniri, perché sono aziende che riguardano le strade, la chiamata viabilità, l'energia, la chiamata via energia, e anche lì consigli di amministrazione, normalmente sempre politici che ci lavorano dentro. E costi in più per i cittadini, perché queste non sono aziende che stanno sul mercato, sono aziende che fanno concorrenza leale alle imprese private e contemporaneamente fanno questa servizio ai cittadini. Queste non sono fantasie, sono vita vissuta. Poi il ragionamento che io faccio sono a favore dell'eliminazione delle sì. province è dovuto anche a una sorta di incontro che ho avuto qualche settimana fa con il presidente degli industriali del Veneto, che durante un dibattito sul federalismo e altre cose mi diceva: ma voi allora, visto che pensate di essere un partito moderno, fate in modo di eliminare le province che non servono niente a nessuno, anche perché questo un ragionamento squisitamente politico, chi oggi viene riconosciuto come veramente il politico con la P minuscola sono i nostri sindaci. L'Italia è ancora il paese dei campanili, il paese dei comuni, non è mai stato il paese delle province. Però voglio dire, lei ha portato avanti questa idea, è stato ha ricevuto all'interno del Partito Democratico più critiche che altro, mi sembra di capire. Insomma, leggevo. Sì, beh, ma vede, ho fatto anche il presidente della Federmeccanica, quindi non è che mi spaventi un collega se mi critica. È giusto che ci sia all'interno di qualsiasi organizzazione una discussione, ma all'interno del pacchetto del Partito Democratico si è parlato già a suo tempo di eliminazione delle province, di creare delle macro aree metropolitane, e quindi perlomeno io credo che già da oggi dovremmo dire tutte quelle in itinere bisogna fermarle immediatamente, sì. Perché ci sono una serie di costi accessori che in alcuni casi magari Monza li può anche trovare i soldi, visto che è una realtà importante imprenditoriale, ma le nuove province che hanno fatto in Sardegna non hanno neanche per comprare i fazzoletti da piangere, insomma. Sì. Quindi lei dice, insomma, dal punto di vista imprenditoriale il costo-beneficio lo vede in netta perdita. Io insomma. Ho anche fatto un certo tipo di ragionamento, ed è corretto quello che diceva il professore prima. Io non dico smantelliamo le province ma diciamo a casi politici dalle province facciamo in modo che gli eletti della provincia in consiglio regionale facciano la trade union tra la provincia e la regione, manteniamo gli uffici attualmente che lavorano in provincia, i dipendenti, e facciamo una cura brunetta anche all'interno delle province. Ah, la cura brunetta, lei dice, ma interessante, insomma. La cura brunetta mi dice che solo sì. Annunciando un certo tipo di analisi la gente torna a lavorare. Quindi non è che si possa rendere questo uguale a tutto il paese, però ci sono in certe situazioni, nel Veneto stesso da dove vengo io, in alcuni casi sono diminuite le malattie improvvisamente solo con l'effetto. Sì, l'effetto annuncio. Allora, le accuse sono qui sul piatto. Vediamo, noi abbiamo chiamato volutamente, insomma, il presidente Galli perché è della Lega e si sa, non è mistero, voglio dire, che la Lega all'interno del governo, lo scrive anche oggi Libero, probabilmente è per questo che c'è un freno a mano tirato anche da parte del presidente del Consiglio. La Lega è la forza politica che più si batte invece per mantenere le province. Quindi vorrei andare da Galli e Melilli. Galli, lei tra l'altro è stata anche parlamentare, quindi insomma conosce entrambe le posizioni, sia l'iter centralista che l'iter della provincia di Varese in questo caso. Perché la Lega è favorevole in generale al mantenimento delle province e perché ci convinca perché le province sono utili? Sì, beh, io non devo convincere nessuno, no, mi pare che i cittadini hanno già un'idea molto precisa su questa questione. No, io vorrei intanto che le cose fossero impostate in maniera pragmatica e non uterina come ho sentito nei primi due interventi. Intanto, allora, per esempio, bisogna cominciare a dire a Confindustria di togliersi tutte le sue organizzazioni provinciali che ha e fare un'unica Confindustria nazionale o al massimo regionale. Lo stesso dovremmo dire di qualunque altro tipo di organizzazione imprenditoriale, sindacale, politica o quant'altro. Con la differenza che una delle due la paga, cioè è un ente pagato da noi, insomma. Io anche farei il conto di cosa è costata la Fiat negli ultimi 30 anni, probabilmente lei cambierebbe minimamente. Ah, vabbè, idea. Sì, ma quello è un altro discorso. Cosa. Mi pare che Confindustria difenda quella gente lì, non quelli come me che lavorano col tornio in cantina. Per cui, a parte questa questione, la questione è puramente pragmatica, cioè il discorso è che tipo di amministrazione si vuole avere nello Stato. Allora, anche qui non si può fare tutta un'erba un fascio, perché un conto sono le province fatte ultimamente, per esempio quelle in Sardegna, con tutto il rispetto ovviamente per chi ha deciso di farlo, che hanno 60, 70, 80 mila abitanti. Un conto è per esempio la regione Lombardia, che ormai ha 10 milioni di abitanti, che ha un PIL superiore al Belgio, la Repubblica Ceca, e sarebbe da sola al 14, 15 posto del mondo, e che ha delle province nell'ordine di 700, 800 mila, 1 milione di abitanti. A questo punto, se togliessimo le province, potremmo farlo tranquillamente, semplicemente sostituiremmo, come già avviene in parte, un livello decentrato regionale per fare quelle attività, quelle competenze che oggi seguono le province, perché altrimenti è impensabile che il comune in alto della Valtellina o il piccolo comune delle colline pavesi possa avere un rapporto diretto col Pirellone, cioè il palazzo della regione Lombardia, per fare una rotonda intercomunale o per mettere a posto un edificio scolastico. Quindi comunque, ma voglio dire, redistribuire le competenze, no, per cui il centrato servirebbe comunque. A quel punto dubito che la struttura regionale decentrata costerebbe meno della struttura politica che c'è oggi. Per intenderci, quello che diventerebbe il direttore generale del decentramento varesino della regione Lombardia sicuramente avrebbe uno stipendio che probabilmente sarebbe 4 volte quello del presidente della provincia. Beh, però attuale. Se dobbiamo pagare un direttore generale per sostituire palazzi, prefetture, province, giunte provinciali, consigliere provinciali, con una persona o con una struttura, un ufficio. Io vi faccio solo un esempio. Allora, certo che se si andasse a un'eventuale riduzione, non abolizione, per aumentare i costi, beh, quello sarebbe clamoroso. Allora, se parliamo di riduzioni, qui sono perfettamente d'accordo, è molto più facile che lo faccia chi ha interesse diretto, cioè per dire, io sono arrivato lì da 7 mesi, ho già bloccato immediatamente il turnover, abbiamo già perso 15 persone su 500 e qualcosa nei prossimi 7 mesi solo col blocco del turnover, e nei 5 anni continuerò a fare così, perché io ho l'interesse diretto, perché ogni stipendio che riesco a risparmiare con la riorganizzazione dell'ente è un intervento pubblico in più che riesco a fare, metto a posto una strada, una scuola, quant'altro, per cui ho l'interesse diretto a far bene le cose in questo senso. Io le faccio solo un esempio: 12 anni fa ero sindaco del mio paese, c'è stato il passaggio dei bidelli dalla competenza comunale alla competenza statale, il risultato è stato che in 2 anni il numero dei bidelli è raddoppiato. E poi, per chiudere questo primo intervento, anche qui smettiamo di fare tutto nell'erba un fascio, perché ci sono le province come la nostra che hanno un numero di dipendenti che è la metà della media nazionale, o abbiamo, per fare un altro esempio, la regione Lombardia che con 10 milioni di abitanti ha 2.600 dipendenti, la regione Sicilia con 5 milioni di abitanti ha 26.000 dipendenti. Quindi al signor Calearo, visto che fa l'industriale, prima di parlare da politico, continua a fare i conti come ha sempre fatto nella sua vita e vada a vedere dove ci sono gli sprechi, come sicuramente ha fatto nella sua azienda. E beh, ma adesso, a tagliare dove gli sprechi ci sono, non dove si è già fatto. Vabbè, allora io devo andare un attimo da Melilli, però Calearo vuole replicare, non la vorrei mettere su un piano personale così. Calearo, no, però replichi e poi andiamo avanti. Mi pare che il partito della regione Sicilia sia al governo con la Lega. Quindi questo basta dare qualsiasi tipo di risposta, non c'è nessun problema, anzi, non è una questione personale, è una questione di stare sul petto. Vabbè, allora andiamo dal presidente Melilli. Presidente, l'idea è quella di per esempio, qualcuno dice togliere le province nelle aree metropolitane, cioè che ci sia una provincia a Milano o a Roma o a Torino o a Napoli, e lì ci sia anche un comune e una regione, forse almeno questo si può eliminare, e poi anche bloccare almeno quelle che stanno per nascere, almeno su questi due punti ci può essere una convergenza? Ma buongiorno innanzitutto, sì. E mi scuso per il collegamento in ritardo che non mi ha consentito di ascoltare i dati del primo intervento, che penso di aver compreso, insomma, sì. Perché ho visto un po' di testi che girano. Beh, insomma, devo dire che viviamo un po' di periodo di superficialità in questo paese, noi ne prendiamo atto, ma insomma, rispondo alla sua domanda, l'Unione delle Province Italiane, si prenda un po' di carta, insomma, se vuole gliene mandiamo, non ha sempre fatto una forte opposizione alla creazione di nuove province, vorrei ricordare che le fa il Parlamento, insomma, ecco, cioè, certo, mille parlamentari italiani, così facciamo un po' di polemicuccia, insomma, di primo mattino, i primi 1.000 parlamentari nominati in Italia. La seconda questione, noi abbiamo documenti, l'ultima riunione con il ministro Maroni l'abbiamo fatta ieri, insomma, dove abbiamo condiviso totalmente l'eliminazione delle province nelle aree metropolitane. Quindi lei non sta parlando con un presidente di un'associazione che tende a conservare. Vabbè, e questo credo di avere consapevolezza che i cittadini e le imprese nei confronti del sistema pubblico italiano hanno problemi seri, e se non lo riformiamo questo sistema pubblico credo che non andremo lontano. Da questo a dire che esiste in Italia una condizione identica per cui Cuneo è come Milano, o Trapani è come Napoli, insomma credo ce ne passi. Noi siamo tra coloro che ritengono che l'ente intermedio svolge una funzione, come in tutta Europa, una funzione che è dettata da una storia, dall'organizzazione dello Stato. Ci piace lo Stato organizzato per aree vaste che non siano le regioni, che sono il vero soggetto che ha, come dire, tradito la sua missione costituzionale, perché insomma non è che possiamo cancellare il paese reale dal paese che è scritto nella Costituzione. Ma ci sono anche i comuni, però, voglio dire, cioè non è che 8000, dalla regione... Mi perdoni, 8100 comuni. Se lei ritiene, io faccio il presidente di una provincia piccola, costruita da Mussolini, insomma 80 anni fa, nell'interno dell'Appennino centrale, con 72 comuni, e io credo che questa politica che continua a ragionare come se il paese fosse tutto una città metropolitana non fa altro che indebolire le aree interne, non fa altro che indebolire le aree dove c'è bisogno, dove c'è meno popolazione ma più territorio, e bisogno di un governo del territorio che non può essere spezzettato in 8000 parti, perché i fiumi non si spezzettano, le montagne non si spezzettano, l'ambiente non si governa comune per comune, e quindi noi svolgiamo una funzione. Poi mi permetta di dire, poi la possiamo anche certificare, sì, con i numeri, insomma, ma mi permetta di dire, ma si può fare un ragionamento dicendo che 100 presidenti di provincia sono una classe politica trombata, sono inutili? Insomma, se noi dobbiamo dar retta alla demagogia possiamo pure farlo, ma insomma, io penso che ci sia bisogno di un po' di rispetto di chi la mattina va in provincia, come il sottoscritto, come il presidente Varese, come altri, ci passa 15 ore a risolvere i problemi della gente per il mandato che gli è stato conferito dagli elettori, e banalizzare questo con io non credo di essere un trombato, ho fatto il sindaco nella vita, sì. Si è ritenuto, facevo il dirigente industriale, insomma, non il proprietario. No, ma allora su questo Calearo vuole chiarire, insomma, davvero vabbè, una cosa veramente su questo modesta. Calearo, perché poi devo andare un attimo in pubblicità, poi gli ascoltatori, vuole chiarire, c'è un po' di demagogia, sì, si dice, no, nel dire mettere i politici trombati, sì. No, ma io ho molto apprezzato l'intervento del presidente delle province, perché c'è molto buon senso. Io credo che al di là della demagogia bisogna fare un'analisi seria di provincia a provincia, perché giustamente non si può fare tutto nella confascia, però solo cominciare a dire discutiamone, parliamone, blocchiamo le nuove province che nascono come i funghi, e lasciamo perdere l'esempio della Sardegna. Credo che sia già un passo avanti. Però Melilli giustamente dice che bisognerebbe fare questa battaglia in Parlamento, cioè noi province siamo, non le vogliamo, è il Parlamento che ce le mette lì, le nuove province. Sia io sono stato tra virgolette tirato dalla giacca durante un convegno e ho risposto, mi passi il termine, di pancia, dicendo quello che penso, come faccio spesso. Dopo questo mio intervento qualcuno, giustamente come diceva lei, del mio partito non era d'accordo, ma per esempio parte del governo, il partito, il popolo della realtà, molti sono d'accordo su questo, ma io addirittura, mi sembra assurdo, dei componenti del Consiglio Provinciale di Vicenza che mi hanno detto hai fatto bene a dirlo, non servono a niente, e loro sono il capogruppo all'interno della provincia. Dopo, per carità di Dio, credo che l'importante è in maniera pacata, seria, discuterne e fare un'analisi. E porre l'analisi, poi vengono fuori che ci può essere provincia e provincia, situazione e situazione, però l'analisi serve a tutti, serve sicuramente a ridurre i costi. Allora, un paio di ascoltatori. Giuseppe dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno e grazie. Dica. Io sono stupito da queste osservazioni, perché non c'è più niente da analizzare in materia. Il Ministero dell'Economia l'anno scorso, 2007, aveva incaricato un'apposita commissione tecnica per la finanza pubblica, i cui lavori sono stati pubblicati anche da Sole 24 Ore nel dicembre proprio di un anno fa. C'è tutto, le analisi... Cioè che cosa? Me lo dica, non, in questo momento mi sfugge. Lo dica agli ascoltatori, cosa vuol dire? Cosa vuol dire c'è tutto, non c'è niente da discutere? C'è tutto, cioè? Quello che state dicendo è stato già approfondito, analizzato e denunciato. Sì, ma mi scusi Giuseppe, stiamo dicendo chi dice che vanno abolite, c'è chi dice che di no. Che cosa c'è scritto? No, la Commissione non ha, ha lavorato per dare al Parlamento gli elementi per provvedere. Poi non si fa niente e lì si dice, parlamentari lì presenti dicono che bisognerebbe esaminare, si vadano a vedere i lavori di questa Commissione che ha già detto tutto sulle prefetture inutili, sulle questure inutili. Ah, sull'inutilità lei dice. Oh, finalmente oh, no, e poi lo dice la Commissione, mica no, no, no, certo, no, ma non si arrivava a capire quale delle due posizioni sposasse questa relazione che Certo, lei ha letto certo, troppe prefetture e uno spreco, diceva Sole 24 ore nel dicembre dell'anno scorso. Lo diceva la relazione. Poi c'è anche un'altra cosa da vedere, sono gli effetti collaterali che sono un disastro. Prevedere questure, prefetture e comandi delle forze dell'ordine di pari livello significa moltiplicare dirigenti che non servono a niente. Pensi lei che negli ultimi 8 anni, per parificarsi alle questure e alle prefetture, carabinieri, finanza e quant'altro, hanno elevato tutti i livelli gerarchici, per cui abbiamo, mentre prima avevamo un colonnello di ogni arma per ogni regione, adesso abbiamo un colonnello per ogni provincia. Questo però Giuseppe è un problema, insomma, se vuole collegato, ma l'ho tirato proprio per i capelli, insomma, c'entra un po' meno. Andiamo da un altro Giuseppe, dalla provincia di Varese, tra l'altro Varese, proprio dove c'è il nostro presidente Galli. Giuseppe, dica. Sì, buongiorno. Dica. Volevo portare una mia testimonianza diretta, visto che c'è il presidente della mia provincia, di quanto le province siano lontane dai cittadini. Io mi spiace deludere il Presidente, ma non so che faccia abbia, cosa faccia, quali sia l'impatto sulla mia vita, se non che ogni tanto ricevo una rivista della provincia che rappresenta dal mio punto di vista un costo e non un beneficio. Trovo anche abbastanza inutile che lei chieda ai politici se servono le province. Nessuno avrà mai il coraggio di dire che l'Italia ha bisogno, se fosse vista come un'azienda, di una semplificazione. Noi abbiamo drammaticamente la necessità di ridurre i costi e di ridurre, se fossimo un'azienda, il numero di livelli gerarchici, perché siamo un paese bizantino dove tutti vogliono difendere e i politici passeranno l'intera mattina a spiegarle che servono le province perché devono difendere loro stessi, gli apparati e tutto. Guardi Giuseppe, allora adesso ovviamente le risponde il presidente Galli, che non devo difendere io, devo dire, se lei non conosce il volto, la faccia del presidente Galli, questo ma adesso le risponderà Galli sul radicamento territoriale, però è magari anche una colpa sua, insomma, si informi, però capisco l'obiezione, detto che ci sono anche dei politici, adesso l'onorevole Calearo, visto che fa anche politica, sta dicendo invece che vanno abolite, ci sono su Libero alcune interviste, ieri il ministro La Russa ha fatto un'intervista dicendo in 3 anni vanno abolite tutte, quindi non è vero che c'è qualcuno, che tutti i politici dicono che vanno tenute. Comunque Galli vuole rispondere a Giuseppe che dice non capisce, Giuseppe, che ovviamente anch'io non conosco personalmente, no vabbè, però dice non capisce cosa fa in concreto la provincia, la vede distante. Comunque, evidentemente mi pare un pochino strano, perché se negli ultimi 7 mesi, con tutte le cose che sono successe, che sono state fatte, che quotidianamente vengono diffuse sulle televisioni locali, sui giornali, non sa nemmeno che faccia ho, vuol dire, non è un problema. Vabbè, ma la faccia, vabbè. Ma forse appartiene a quella minoranza di cittadini, e peraltro solo un terzo, che non mi ha votato. Comunque va bene. Però, signor Giuseppe, vorrei ricordare, per esempio, che se ha dei figli che vanno a scuola, il suo presidente della provincia e quelli che l'hanno preceduto ha fatto sì che in provincia di Varese, contrariamente alla media nazionale, ci sia il 100% delle scuole di incompetenza provinciale, cioè tutte le superiori che hanno l'agibilità statica, il 100% delle scuole che sono a posto dal punto di vista dei vigili del fuoco come normativa interna, cose che magari nel resto d'Italia non succedono, invece in provincia di Varese sì. Vorrei ricordare al signor Giuseppe che la provincia di Varese, ma anche a tutti, se fosse abolita creerebbe, e questo ascoltatemi bene perché è singolare, sicuramente la maggior parte non lo sa, creerebbe un danno allo Stato, perché in questo momento la provincia di Varese ha un bilancio annuale di 105 milioni, una roba ridicola rispetto alla potenza economica della provincia, ma questo è lo stato dell'arte in Italia. Tutte raccolte con tasse locali previste dalla legge, tutte con le aliquote al minimo, e in più la provincia di Varese ogni anno restituisce pensate bene, 16 milioni di euro allo Stato centrale, perché ancora ci trasciniamo la questione del personale ATA, cioè dei bidelli, di altre cose di questo tipo. Sì. Quindi prima di dire cose che non quindi si quindi abolirla conosco, sarebbe una perdita. I 115 milioni che diceva prima di costo della sì. politica, che peraltro io chiamerei costo della democrazia, perché le province sono anche un importante passaggio di indirizzo politico dei cittadini, sono meno di quanto abbiamo regalato la sua città di Catania qualche mese fa. Questo è vero. Silvio Boccalatte, abbiamo, se la Consola ha dedicato un paio di puntate alla vicenda del prestito a Catania. Silvio Boccalatte, vorrei tornare da lei, voglio ricordare il ricercatore che ci ha snocciolato le prime cifre, curatore di questo libro Abolire le province. C'è qualche altro dato magari sulle entrate tributarie delle province che ci può sottoporre magari per portare avanti la discussione? Ma io vorrei soltanto precisare alcune cose che sono state dette, perché l'ultima, parto dall'ultima, e cioè il costo della democrazia. Cioè, questo c'è un dato ben preciso: l'Italia, ogni cittadino italiano ha sopra il suo capo 5 livelli di governo democratico: comune, provincia, regione, Stato, Comunità Europea, ormai Unione Europea, senza parlare delle comunità montane, altro ente inutile, oppure dei quartieri, tutte queste. Quindi 5 enti locali. Allora, venire a dire, come avevo già sentito, che il costo delle province è un costo della democrazia e che le province sono un patrimonio di democrazia è assolutamente sbagliato, perché addirittura avere un ente così irrilevante in fondo come le province mina la credibilità dell'intero sistema democratico italiano, perché è vero che l'ascoltatore forse non sapere chi è il presidente di provincia è un po' imbarazzante, però sarei curioso di fare un'indagine e scoprire quante persone conoscono almeno un assessore provinciale, uno, non di più, uno. Beh, ma anche questo non, secondo me qua c'è un po' il rischio di demagogia, mi permetta, Boccalatte, anche l'assessore comunale magari, anche l'assessore regionale la gente non sa chi sia. Guardi che molto spesso io faccio le domande a persone che incontro, conoscenti, gli chiedo chi è il ministro della giustizia italiano, e guardi che non è tanto raro vedere facce un po' spaesate, eh? Comunque continui. Poi io volevo dire un'altra cosa in relazione sia a quello che prima di tutto a quello che ha detto il presidente Galli. Non si può pensare che la provincia sia un ente federalista. Io questo mi rivolgo al presidente Galli da federalista feroce quale io sono. La provincia è il contrario proprio totale del federalismo, mentre lo sono i comuni. I comuni, è vero che il singolo comune della Valtellina, come è stato nominato, non potrebbe gestire i servizi, ma nessuno pretende che sia il singolo comune della Valtellina a gestire i servizi, ma io molto modestamente nel libro che ho curato ho lanciato una proposta: lasciamo che le regioni diano un quadro giuridico nel quale effettivamente i comuni possono amministrare i servizi in modo innanzitutto elastico e poi concordato con altri comuni. Questo è un punto interessante, onorevole Calearo, so che lei l'ha raccontato di recente, cosa avviene per esempio nel comune, ma dove vive lei, per quel che riguarda il consorzio dei comuni per gestire servizi, mi si passi la parola, in comune, tra comuni, e magari arrivare un domani anche ad accorpare alcuni comuni, è questa anche una strada? Ma vede, questa è vita vissuta, io abito in un paese a 10 chilometri dal centro di Vicenza, ho l'azienda a un paese limitrofo a 13 chilometri e tra i due c'è un altro comune. Sono tre comuni, due amministrati dal centro-destra, uno dal centro-sinistra, che hanno accorpato già in passato i servizi, per esempio la polizia, per esempio la raccolta dei rifiuti, per esempio le scuole, cioè hanno un lavoro d'équipe. Io credo che pur mantenendo l'importanza del comune e la figura del sindaco, perché io rimango sempre convinto che il politico con la P maiuscola rimane il sindaco, a cui il cittadino gli suona il campanello, gli va a chiedere se sono fatte o come sono fatte le cose. Quando la dimensione del comune è molto piccola, è giusto che ci si consorzi, è giusto che si lavori insieme per dare un servizio al cittadino migliore e costi meno. E credo che questa sia una strada che si possa fare, se togliamo la demagogia, un po' alla volta se ne va, anche perché il sindaco viene eletto non perché fa parte di una maggioranza, o perché è leghista, o perché è del PDL, o perché è del PD. Viene eletto perché è una persona per bene conosciuta dalla gente, quindi si vota l'individuo, non si vota lo schieramento, almeno da noi succede così, per fortuna. È sempre l'uomo che fa la differenza, e quindi, come diceva un proverbio, un proverbio dell'Estremo Oriente, la differenza tra il deserto e il giardino non la fa l'acqua, la fa l'uomo. E nei comuni noi vediamo che quando l'uomo, il sindaco, è una persona che ha gli interessi dei cittadini, è considerato veramente il vero politico. Presidente Melilli, fatto salvo che se si riversassero in maniera intelligente tutte le competenze attualmente alle province, e se venisse anche salvata, come ha detto Caleara, come dico anch'io, ma come dicono tutti i dipendenti, voglio dire, non è che bisogna prendere, mandare a casa la gente e far perdere il posto di lavoro, alle province, perché difenderle appare, secondo lei, come una difesa un po' della poltrona? Ma guardi, mi faccia dire una cosa, a parte che consiglio al, non so se è un economista il signore che ha parlato prima, insomma, di evitare frasi ridondanti tipo mi è minata la democrazia, insomma, evitiamole, perché sennò davvero la demagogia diventa imperante. Io le dico semplicemente una cosa. Io assisto adesso a questa campagna di stampa che fa un giornale, dove si dice ai cittadini: cancellando le province risparmiamo 14 miliardi, no? A loro dicono 16, insomma, 16 e mezzo, 2 miliardi di bilanci delle province, ma questo può capitare nella fretta. Ma avete già detto che il personale non lo portiamo in un forno crematorio, penso, no? Cioè, no, il personale evitiamo anche, esatto, anche questo. Ma insomma, noi spendiamo 800 milioni di euro dal nostro bilancio per la messa in sicurezza e la costruzione delle nuove scuole. Che facciamo? Cioè, lo farà qualcun altro, immagino. Allora, io la invito, ma con molta serenità, a fare una disamina del bilancio delle province e vedere i soldi che si possono risparmiare davvero, no? Con l'eliminazione, perché almeno facciamo un ragionamento con qualche cifra comprensibile, o meglio, credibile. È ovvio che questo sistema pubblico è un sistema pubblico ridondante, gliel'ho già detto. Il problema è che qualcuno dovrebbe mettersi, e questo lo fa il Parlamento, lo farà Calearo, lo faranno quelli che governano, intorno a un tavolo in Parlamento e decidere quale paese vogliamo. E in questo paese ci sono miliardi che si spendono, ci sono 10.000 commissari che noi paghiamo, noi sistema di paese. In questo paese ci sono l'IATO, ci sono organizzazioni, enti intermedi, società che hanno costruito le regioni per svolgere funzioni amministrative, che hanno reso l'Italia un sistema ridondante in modo impressionante da un punto di vista pubblico. Ma per carità, ma cosa facciamo? Noi tocchiamo gli enti che la Costituzione prevede come gli enti di elezione diretta, di rappresentanza dei cittadini. Si può anche fare. Però con questa logica non è sempre un iniziamo da un altro. Ma perché voglio attaccare le province, cosa che non attacco. Io le dico questo: non accadrà, le province non verranno abolite. Per abolire le province ci vuole una legge costituzionale, e siccome raramente siamo riusciti a fare leggi costituzionali approvate dal Parlamento e dal referendum dei cittadini, c'è una volontà vera che ci chiede il mondo industriale, che ci chiedono i cittadini, di semplificarlo questo sistema. Si può fare, capisce? Cioè, c'è una norma in Parlamento, nella Costituzione, mi scusi, che dice che lo Stato e quindi il Parlamento decide le funzioni fondamentali di ogni ente. Allora, si venga da me a togliere dalla mia responsabilità le politiche sociali, le politiche quelle che possono fare meglio i comuni come soggetti di prossimità. Sì. Si lasci alle province il governo delle reti, del territorio, dell'ambiente, dell'area vasta, che le regioni non possono. Ci sono regioni che danno contributi alle proloco, capisce? Cioè, il problema è che qui vogliamo fare tutti i sindaci. Va bene, no, ma si faccia, tutti, però voglio dire facciamo. Che allora lasciamo fare i sindaci ai sindaci, e noi facciamo i soggetti che governano territori. L'importante, Presidente, è che si arrivi a un sistema. A me sta bene anche un sistema, mi scusi, in cui non ci sia l'assessore, che ne so, all'ambiente del comune di Rieti, l'assessore all'ambiente della provincia di Rieti, l'assessore all'ambiente della regione Lazio. Siamo totalmente d'accordo. Il problema è che non si può spostare, cioè si sposta il tiro. Questo è un paese che ha sempre spostato il tiro per non fare nulla. Siccome siamo arrivati al ridosso di una riforma seria, perché è inutile che mi si dice che io non sono un ente federale, ma mica me mica lo decido io quali sono le tasse delle province, io sono un ente derivato, perché la regione invece di darmi un tributo come vorrebbe il 119 della Costituzione e un paese federale, mi dà trasferimenti, quindi non è che si può attribuire all'ente finale, quello che riceve le funzioni e riceve i denari per spenderli, la responsabilità di non essere federale. Allora, si costruisca questo paese federale, ci stiamo provando, Gatti lo sa, insomma Calearo credo che ne abbia una particolare sensibilità, sì, il territorio da dove proviene, ma insomma la demagogia è il territorio che anche tra sei anni. Allora, posso dire una cosa? Sì, la dica. Dico a Calearo che la provincia di Fermo, io ho il presidente degli industriali di Fermo che è arrabbiatissimo con me perché racconto questa cosa all'Italia, il comitato per l'istituzione della nuova provincia di Fermo stava nella sede degli industriali di Fermo, capisce? Allora gli industriali di Fermo vogliono la provincia nuova e Confindustria non la vuole, allora mettiamoci d'accordo. Fermo è una di, di quelle province che c'è che è fermata, insomma, perché è bloccata fino al 2009. Onorevole Calearo, visto che lei viene da un territorio, ha detto Melilli, particolare, un territorio che sta anche un po' insomma, le faccio una domanda che non c'entra sulla questione delle province, ma visto che si parla tanto di Partito Democratico del Nord, no? Lei è lì che sta nel Nord, è coordinatore anche del Veneto, il Partito Democratico, come la vede? È anche questo un esempio di federalismo all'interno del partito? Ma vede, io credo che al di là di tutto bisogna ascoltare i bisogni della gente. Ed è evidente che ogni territorio ha le sue peculiarità. Noi adesso stiamo discutendo di questa necessità di essere più vicini alla gente. Direi che i miei colleghi parlamentari già 3 mesi fa, quando in maniera tranquilla mi hanno chiesto di fare il coordinatore, abbiamo visto che era il momento di parlarci e di discutere, ci siamo trovati anche ieri sera. Dobbiamo essere molto più vicini al territorio. Noi abbiamo già fatto, ma continuiamo a fare... un incontro mensile per singola provincia del Veneto per ascoltare gli amministratori, per sentire i problemi, ma tutto lì, sa, non c'è idea di fare un partito nel partito. Bisogna fare poca demagogia ed essere vicini alla gente, questo serve. E diamo a Forlì da Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, sono consigliere provinciale di Forlì, di Italia. Sì. Le devo dire che sono assolutamente a favore dell'abolizione delle province. Le dico anche perché, anche se le province hanno molte competenze che le sono date poi dagli organi superiori, regioni, stati, eccetera, però sono organismi di cui si potrebbe fare tranquillamente meno. Anche se devo dirle però che il risparmio non è quello che dice poi Feltri, perché alla fine lei potrà risparmiare solo le spese della rappresentanza politica. Nel mio caso, dalla casa della mia provincia, circa 1 milione l'anno. Non sono i 14 miliardi verrebbero. Anche perché, le faccio un esempio, la provincia ha competenze sulle scuole superiori e sulle strade provinciali, che sono tantissime. Non è che nel caso mio, della provincia di Forlì, quindi della Emilia Romagna, posso dei tecnici da Bologna gestire la manutenzione, venire da Bologna e vedere una volta che c'è un buco in una strada. Ma voglio dire, ma basta che le competenze, non è che dovesse sparire la provincia. Sono d'accordo dall'abolizione, ho detto per lo premesso, perché no, ma certo. No, ma voglio dire, il messaggio non deve passare che si occupano le strade provinciali, sparisce la provincia, le strade provinciali vengono abbandonate. Le strade provinciali passano anche. Fatto fuori l'organismo politico, di cui si può fare benissimo meno, so prima dirlo, oppure che si crei un'altra struttura di raccordo, perché comunque ci vorrà un raccordo sulla viabilità, ci vorrà un raccordo sulla manutenzione delle scuole superiori, oppure che da una parte si facciano uscire i milioni, milioni e mezzo di spese dalla politica, che io sono il primo a dire andrebbe eliminata, poi magari se ne spendono 5-6 per fare altre sovrastrutture. Allora comunque disponibili, sono d'accordissimo a abolirle, sono il primo a dirlo. Va bene, grazie Fabio, consigliere provinciale a Forlì. Se bisogna eliminarne una per poi creare una struttura di raccordo che ne moltiplichi i costi, vabbè, è chiaro, allora è un paese per cui andiamocene tutti all'estero. Lo dico come provocazione. Detto questo, insomma, poi le strade provinciali passano anche attraverso dei comuni, basta redistribuire i compiti, ma mi viene così in maniera banale da rispondere a questo tipo di obiezione. Presidente Galli, le chiedo perché la Lega è un dato di fatto, voglio dire, è la forza politica, l'ho detto anche Maroni un paio di giorni fa, è così attaccata a dire no, le province servono più degli altri partiti. Alleanza Nazionale, il ministro La Russa ha detto aboliamo, per esempio. Beh, per un motivo molto semplice, noi abbiamo in mente un sistema federale vero. In Svizzera funziona esattamente così, c'è il comune, il cantone, che è l'equivalente alla nostra provincia, che fa delle cose molto importanti, e poi la confederazione. Ricordiamo che la Svizzera tutta insieme è più piccola della sua Lombardia, quindi in un paese di 60 milioni come l'Italia i passaggi ci starebbero. Però mi pare che le cose dette confermino esattamente poi nei fatti, nei numeri, ma anche nei ragionamenti quello che io ho detto all'inizio. A parte l'ultimo pittoresco consigliere che se la vuole abolire non so cosa si è messo in lista a fare, ma poi lui il primo Vabbè, a dire che i costi non diminuirebbero, ci sarebbe una sovrastruttura e comunque non può uscire il tecnico della regione a mettere a posto, banalizzando, il buco della strada provinciale. Ecco, allora mi deve spiegare cosa vuol dire alle province. Ha detto che verrebbero eliminati i costi della politica, i 16 miliardi o 14 miliardi. Su questo, ed è questa la posizione della Lega, cioè se al mio posto ci deve essere un funzionario regionale, io non da presidente, che faccio perché il partito me l'ha chiesto, quindi lo faccio con impegno, però non è certo la missione della mia vita, lo faccio perché è giusto farlo, però per dire, se il paese nel suo complesso decidesse di abolirle ne prenderei atto, non farei certo altro se non questo. Però voglio dire, io da cittadino, non da presidente, preferisco avere nella mia provincia di 1 milione di abitanti uno eletto dal popolo che non uno mandato da una maggioranza regionale che in quel momento, questo non è da sottovalutare, può anche essere diversa dalla maggioranza dell'opinione di una provincia di 1 milione di abitanti. Ma allora così però, quindi, mi scusi, bisognerebbe fare anche le province ancora più settoriali per capire se anche lei non rappresenta, è stato eletto con un ampio consenso, allora, ma parliamo da paese civile, ci saranno anche dei comuni in provincia di Varese che non l'hanno votata a maggioranza, insomma, che rispetto assolutamente come gli altri, anzi quando mi accorgo che è così cerco di essere ancora più attento alle loro esigenze. Ma al di là di questo c'è una logica, come dire, industriale, visto che vogliamo diventare un paese moderno, ci sono delle, come dire, masse critiche ragionevoli, quindi un comune di 100 abitanti certo fa fatica a stare in piedi, però io sono primo a dire, se è su un cocuzzo della montagna, rappresenta la storia, deve restare comune. Una provincia di 70.000 abitanti come le ultime fatte in Sardegna non ha molto senso, lo dico con rispetto. Sì. Una provincia di 1.200.000 abitanti come Bergamo è una signora provincia e non potrebbe essere sostituita da nient'altro. Però alla fine mi pare che la cosa importante che sta uscendo sono i numeri, che sono ben diversi da quelli che da Libero. Io ricordo solo l'ultima cosa e chiudo, sì. Ho fatto parlamentare tanti anni, il costo medio di un dipendente della Camera o del Senato, l'usciere, non il direttore generale, è di 250.000 euro all'anno. Guardi, ecco, 4 volte quello che prende il presidente della provincia di Varese. Oltre che Catania, se la consola, abbiamo fatto una puntata anche sui dipendenti di Camera e Senato. Spesso, lo so, va bene, grazie. No, comunque guardi, con lei mi fermo perché il tempo è scaduto. Ricordo che potete riascoltare tutto sul sito radio24.it. Staremo a vedere se, come dice il presidente Melilli, non succederà, non capiterà, non avverrà questa abolizione delle province, che da più parti si dice va fatta, da altre invece si dice no. Staremo a vedere se quello che diceva Crispi nel 1880 rimarrà, e cioè l'appello aboliamo le province e poi ci sono ancora. Grazie ad Alessandro Marco Tulli e Elisabetta Fusconi in redazione, Giorgio Matè in regia. L'appuntamento con Viva Voce è rinnovato a domattina.